una 3 giorni fondamentale per dare ancora più attenzione rispetto a quello che avviene nel Mediterraneo, per denunciare quello che sta avvenendo in questo momento nel Mediterraneo centrale, un mare dove si continua a morire, dove continuano ad esserci drammatici naufragi nel silenzio della comunità internazionale, ma soprattutto nella complicità dei governi europei che non stanno facendo nulla per impedire che questo accada, anzi sono resi complici di quelle catture continue che avvengono nel Mediterraneo da parte della cosiddetta Guardia Costiera Libica, di respingimenti veri e propri che avvengono nei confronti di migranti che provano ad attraversare quel confine e che vengono riportati indietro in un paese in guerra, in un paese dove ci sono dei centri di detenzione dove avvengono violenze, torture, e questo è testimoniato dall'ONU, dall'UNHCR, oltre che dai segni sui corpi dei migranti e dai racconti che vengono fatti di queste atroci e disumane violenze. Noi davanti a tutto questo non possiamo rimanere indifferenti, per questo abbiamo messo insieme tante energie, tante forze per costruire questa piattaforma che è Mediterranea, per questo abbiamo comprato la Mare Ionio, una nave battente bandiera italiana, e da ottobre che siamo nel Mediterraneo centrale. In questo momento siamo fermi perché dopo i 2 salvataggi, 2 soccorsi che abbiamo fatto nei mesi scorsi, la nave, la Mare Ionio, è stata posta sotto sequestro probatorio, c'è un'indagine in corso. Noi chiediamo, ed è per questo che diventa anche centrale questi 3 giorni qui a Bologna, che la Mare Ionio venga immediatamente liberata, dissequestrata, perché c'è bisogno di tornare in mare, c'è bisogno di essere lì dove oggi dobbiamo stare per difendere e riaffermare la nostra umanità davanti a questa barbarie, per rovesciare questa criminalizzazione nei confronti dell'ONG, nei confronti della solidarietà in mare e a terra, per squarciare anche quel velo di indifferenza che in questo paese purtroppo oggi c'è. Nel frattempo continua comunque il lavoro dell'equipaggio di terra, diciamo, di Mediterranea, quindi ti chiederei anche un po' come sta andando quello, come sta andando comunque il lavoro appunto di Mediterranea, che non si ferma con la Mare Ionio. Sì, esatto, l'equipaggio di terra diventa sempre più numeroso. Mediterranea è composto dall'equipaggio di mare, ma è appunto di un ben nutrito invece anche equipaggio di terra, che in questi mesi ha sostenuto Mediterranea con diverse iniziative, diversi eventi, con diverse mobilitazioni, diverse azioni, e sono diventati tantissimi membri di questo equipaggio in questi pochi mesi di attività. E le vie di terra vanno avanti, bisogna continuare a tracciare nuove rotte anche a terra, continuare a tracciare rotte di solidarietà, di umanità, c'è bisogno di connettere tutti quei territori accoglienti, tutte quelle città, quelle realtà solidali che non si arrendono davanti a questo clima d'odio e di razzismo crescente, e che quotidianamente portano avanti pratiche di solidarietà che in questo momento diventano anche un'arma potente contro l'arroganza del potere, per vincere la paura, per costruire una società diversa rispetto a quella che sembra invece la direzione maggioritaria. A proposito di equipaggio di mare e di equipaggio di terra, questa è la prima 3 giorni di festa, diciamo, che si sta organizzando, ma c'è già stata di recente un'altra 3 giorni di Mediterranea, che era Mediterranea Take Action, appunto di formazione per allargare l'equipaggio sia di mare sia quello di terra. Una 3 giorni che ha sollevato anche, diciamo, delle critiche, delle accuse pesanti da parte di Galeazzo Bignami, quindi ti chiederei anche un commento su quelle dichiarazioni. Non ci sorprendono affatto le dichiarazioni di vario genere che arrivano contro Mediterranea, o gli attacchi che in questi mesi abbiamo ricevuto in varie forme. Noi siamo consapevoli del fatto che c'è bisogno di Mediterranea in questo momento, c'è bisogno di continuare ad andare avanti con la nostra attività in mare e a terra. Non ci preoccupano gli attacchi, perché siamo convinti di aver operato nel giusto, di aver operato rispettando, seguendo un'etica che è quella che ci guida anche in queste attività che portiamo avanti. Siamo convinti anche dell'azione politica che portiamo avanti attraverso Mediterranea, e c'è una grande domanda da parte della società di costruire momenti di questo tipo. Ci sono tantissime persone che hanno partecipato alle assemblee, agli eventi che si sono organizzati in questi mesi, ci sono tantissime persone che si sono rese disponibili a far parte dell'equipaggio di mare, di terra, di Mediterranea, e questo mettersi a disposizione da parte di tanti e tanti ci dà la motivazione, la spinta per continuare ad andare avanti, per anche non fermarci davanti ai continui attacchi e soprattutto affermare con forza che in questo momento c'è bisogno di non rimanere in posizioni isolate, ma di provare a mettersi davvero tanti e tante assieme, provare a connettere le diverse cose, anche diverse, e creare qualcosa di veramente grande, di qualcosa di veramente ampio, plurale, eterogeneo, per andare in una direzione diversa. Noi siamo consapevoli che gli attacchi arriveranno, perché in questi anche pochi mesi di attività abbiamo fatto delle cose importanti, abbiamo riaffermato dei principi che sono completamente invece in questo momento rovesciati, abbiamo denunciato e abbiamo reso esplicito quello che sta avvenendo in Libia. Abbiamo rimesso in discussione anche delle alleanze, dei trattati con la Libia che in questo momento ci sono tra il nostro governo e quel paese, e sono arrivate anche delle direttive da parte del Ministero dell'Interno, no? Contro la Mare Ionio, contro l'attività di Mediterranea, ma noi continuiamo ad andare avanti perché siamo fiduciosi questa nostra attività sia proprio dalla parte giusta, sia proprio la cosa di cui c'è bisogno oggi, sia lo spazio attorno al quale costruire nuova società, attorno al quale tessere insieme una società diversa e attorno al quale costruire delle azioni in grado davvero di cambiare le cose, di trasformare l'esistente. Ed è per questo che non ci fermiamo, ed è per questo che siamo convinte di andare avanti.